l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa dagli studi di Milano di Radio 24, il nostro appuntamento settimanale con l'Europa, un programma in collaborazione con Euronet, www.euronet.eu, per conoscere il sito di questo network che lega tra di loro tantissime radio europee. Raccontiamo l'Europa, Radio 24 lo fa quotidianamente, noi al sabato siamo qui per portare anche altri punti di vista. Quella di oggi sarà una puntata un po' atipica, perché in tanti di voi ci hanno chiesto una sorta di ripasso per conoscere l'Europa anche e soprattutto attraverso internet e quelli che sono un po' i portali, i punti di riferimento che diamo settimanalmente appunto per scoprire altre Europe. E partiamo proprio dal Parlamento europeo e da come il Parlamento europeo si racconta online, e per farlo abbiamo invitato nuovamente un'amica dell'Altra Europa. Lei è la coordinatrice dei social media del Parlamento europeo. Diamo il benvenuto e il ben ritrovata a Raffaella De Marte. Ciao Raffaella. Buongiorno, buongiorno a tutti, Federico, ciao. Buon sabato a te. Allora, il Parlamento europeo che si racconta attraverso la rete, e quali sono le possibilità che i cittadini hanno appunto per interagire, per conoscere le attività del Parlamento attraverso internet? Sì, ecco, il Parlamento ha cercato di fare uno sforzo a partire dalle elezioni del 2009 per raggiungere un pubblico più ampio rispetto a quello tradizionale, quello dei media, attraverso internet, diciamo varie possibilità online e in particolare social network. Per cui prima di tutto direi che comunque c'è il sito del Parlamento europeo, che è aggiornato ogni giorno in 22 lingue con articoli sull'attualità, appunto abbastanza al passo con le news giorno per giorno, per cui è una risorsa, una fonte abbastanza importante, credo, ed è www.europarl.europa.eu, e poi con tutte la possibilità di scegliere la propria lingua. Sì. Questa è, diciamo, la mamma di tutte le altre, la galassia del Parlamento online. E poi siamo presenti su Facebook, su Twitter, su Flickr, su YouTube, e abbiamo anche un blog come, diciamo, comunicatori online, una cosa un pochino più specifica in inglese. Se vuoi ti dico gli indirizzi di queste varie piattaforme. Se ci vuoi dare le piattaforme, poi noi le pubblicheremo nelle nostre pagine in Facebook. Proprio magari quella di Facebook è un po' il riferimento principale, poi le altre le andiamo a inserire noi direttamente. Ok, allora Facebook è www.facebook.com/European Parliament. Ecco, numeri notevoli, nel senso che non è solo una cosa essere alla moda, non è che siete solo su queste piattaforme perché bisogna esserci. Gli utenti rispondono e rispondono attivamente, con interesse. Sì, sì, in particolare Facebook, abbiamo fatto il calcolo recentemente, appunto il Parlamento europeo è il terzo come presenza delle istituzioni, diciamo, internazionali su Facebook dopo la Casa Bianca e l'UNICEF, per cui siamo contenti perché è una pagina importante dove abbiamo oltre, credo, 166.000 fan per il momento che interagiscono quotidianamente e regolarmente con il Parlamento europeo. È una pagina in inglese, ma che si rivolge ovviamente a tutti i cittadini europei e che cerca di creare uno scambio di idee e di opinioni sui maggiori temi dell'attualità europea, l'economia, la crisi, piuttosto che, non so, i temi che riguardano l'alimentazione, i consumi, gli scambi, la cultura, i giovani, per cui tutti i temi su cui l'Unione Europea è competente. E Raffaella, scusami, e si riesce a fare una comunicazione un po' più calda usando i social media, nel senso che cambia anche un po' il linguaggio, cambiano le modalità di trasferire certi contenuti, solitamente ritenuti freddi, solitamente ritenuti competenza del palazzo e basta? Beh, assolutamente sì, noi abbiamo imparato a usare proprio un altro linguaggio sui social media. Quello che scriviamo negli articoli non ha, diciamo, lo stesso tipo di, così, non è così a portata in mano, così anche scherzoso, così leggero nei toni come può essere sui social media, ma soprattutto lo vediamo come un canale in due sensi, per cui non è mai il Parlamento europeo ha adottato questa decisione il giorno tal dei tali, ma è sempre una presa di posizione e poi che cosa ne pensate voi? Si conclude sempre con una domanda il post su Facebook, per cui stimola veramente l'interazione e la cosa interessante è che questo secondo me riflette bene il carattere di un Parlamento, perché il Parlamento spesso più che decisioni comunica discussioni, per cui si adatta particolarmente bene a una struttura appunto di tipo parlamentare, perché incoraggia il dibattito e quindi... Certo, quindi non solo informazioni... Sì, assolutamente, anche informazioni, ma però, non solo, però anche... soprattutto scambio con i parlamentari e anche fra i cittadini, fra loro, la cosa... abbastanza straordinaria la nostra pagina, che c'è veramente un dialogo fra ragazzi, ragazze dall'Estonia al Portogallo, dalla Spagna alla Grecia, che si ritrovano sulla nostra pagina per dibattere di temi che sono sempre di più nella nostra realtà quotidiana di tutti noi, anche se mancano gli spazi dove scambiare, insomma. Certo, Raffaele, ecco, hai citato i parlamentari, i deputati, loro come se la cavano a colpi di mouse? Riescono a trasformare il loro pensiero, la loro voglia di comunicare in qualcosa di utilizzabile sulle piattaforme, se sanno usare Facebook? Ma io credo che col tempo tutti o quasi stanno capendo l'importanza di questi canali di comunicazione per colmare un po' il gap che li separa dai cittadini, perché da un lato i media tradizionali, giornali, carta stampata, televisione, ma anche la radio, con l'eccezione ovviamente dell'altra Europa, hanno un po', diciamo, abbandonato i temi europei a vantaggio della politica nazionale, quindi è difficile per i parlamentari europei trovare una visibilità, e questo è un po' compensato da internet. E dall'altro lato anche fare vedere qual è il loro lavoro, spiegare che non è che vanno a Bruxelles a divertirsi, ma che agiscono e legiferano per i cittadini europei. Quindi abbiamo anche su questo fatto delle statistiche abbastanza recentemente, ci sono sui 736 deputati, adesso non vorrei, ma 502 sono su Facebook, quindi circa il 70% ha una presenza. E su Twitter quasi il 40%, il 38% dei deputati europei ha una presenza attiva su Twitter, per cui direi di sì, che hanno capito l'importanza di questi strumenti, poi con usi chiaramente differenziati e variati fra gli uni e gli altri, però noi da parte nostra, ecco, questa è un'altra novità che volevo annunciarvi, che abbiamo fatto una tab, si chiama, un'application su Facebook in cui potete trovare tutti gli indirizzi dei blog, delle pagine Facebook e dei Twitter dei parlamentari europei. Si chiama Maps, è sulla colonna sinistra della pagina, e potete cercare tutta appunto l'attività online dei vostri parlamentari e contattarli direttamente dalla pagina Facebook del Parlamento europeo. Speriamo di rendere un servizio appunto a cittadini, associazioni e organizzazioni che vogliono mettersi in contatto con i loro rappresentanti europei in maniera diretta. Perfetto, insomma, proprio in quest'ottica di essere sempre più interattivi, presenti e dare la possibilità di sentire, di dare l'idea proprio ai cittadini, non solo dare l'idea, ma dare gli strumenti per essere parte attiva di questo Parlamento europeo e di questa vita europea. Un grazie a Raffaella De Marte, coordinatrice dei social media del Parlamento europeo. Raffaella, comunque tante novità, quindi sicuramente ci ritroveremo sì, qui all'altra ci Europa. Ci saranno un sacco di sorprese in autunno anche, per cui ci risentiremo. Perfetto, noi ci saremo. Ciao, buon sabato. Ciao. Grazie, Raffaella. Anche a te, buona giornata. Ciao. Adesso un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Anch'io volontario in Europa. Un sito nuovo per le associazioni di volontariato che vogliono far conoscere e promuovere le proprie iniziative e favorire lo scambio di esperienze in tutta Europa, creato in occasione dell'anno europeo del volontariato che è proprio quest'anno. È volontariineuropa.eu ed è una piattaforma che consente alle associazioni di volontariato di far parte di un potente motore di ricerca attraverso cui raggiungere visibilità internazionale e istituzionale, favorire i contatti transnazionali, la mobilità degli operatori e creare una rete europea di informazioni. Le associazioni di volontariato e le organizzazioni del terzo settore potranno registrarsi e caricare sul portale la propria presentazione, progetti e immagini. Ricordate l'indirizzo volontariineuropa.eu. L'altra Europa. L'altra Europa continua il nostro viaggio alla scoperta di siti internet e di portali che raccontano l'Europa e che possono essere utili appunto per avere un'idea di quello che accade nel nostro continente e da più punti di vista diversi. Il prossimo sito che andiamo a conoscere si chiama europeanvoice.com, è un sito particolare legato e creato al gruppo dell'Economist. E con noi c'è Lorenzo Morselli, che è il responsabile sviluppo eventi. Ciao Lorenzo, buon sabato. Buon sabato. Allora, la redazione dove si trova del portale? A Bruxelles. Tu cosa ci fai lì? Da quanto ci io, lavori? Io sono da European Voice da 3 anni e mi occupo delle conferenze, degli eventi che organizziamo a Bruxelles principalmente. Mm-hmm. È un portale che è un punto di riferimento per giornalisti, per addetti ai lavori, ma non solo. European Voice è direi una pubblicazione di referenza sugli affari europei e quindi è molto letta sia nelle istituzioni europee che dai professionisti che lavorano attorno alle istituzioni europee, lobbyisti, diplomatici, eccetera, e che devono seguire accuratamente quanto accade nelle istituzioni europee. Quindi seguire procedimenti legislativi, queste cose qua, quindi una pubblicazione abbastanza tecnica che in origine è un settimanale cartaceo, sì, e che però da una decina d'anni è anche presente online con il sito europeanvoice.com. Ecco, ma è solo un megafono di quello che accade all'interno del Parlamento o ci sono anche inchieste, servizi, c'è proprio una ricerca della notizia? È un settimanale di analisi, quindi c'è un seguito di quanto accade, di quanto viene deciso alla Commissione europea, al Parlamento, al Consiglio e anche nelle capitali degli Stati membri, però soprattutto qui a Bruxelles. Ecco, tu Lorenzo ti occupi anche dello sviluppo appunto degli eventi, cosa vuol dire? Nel senso che c'è anche una presenza sul territorio del portale? Sì, perché essendo un organo di stampa consideriamo che il nostro ruolo è anche di animare il dibattito pubblico. Beh, insomma, e internet ci ha permesso di dare un'altra dimensione a questi eventi che facciamo, certo, dargli una vita più lunga, più estesa e poi anche di sviluppare nuove cose, nuovi prodotti. Eh sì, insomma, poi è un bello scambio, no? Dal territorio alla rete e viceversa, quindi è sicuramente interessante e ricco di spunti, perché insomma l'essere a Bruxelles, l'attualità europea, per fortuna o per sfortuna comunque non manca e ci accompagna quotidianamente, soprattutto in questa lunga estate, e quindi credo che il vostro sia un lavoro assolutamente importante. Grazie davvero Lorenzo per averci fotografato che cos'è European Voice. Ricordiamo www.europeanvoice.com il sito. Ciao e buon lavoro. Grazie, arrivederci. L'Europa raccontata dalla rete è un po' questo il tema della puntata di oggi. Stiamo andando alla scoperta di alcuni dei siti più importanti, più rappresentativi di quello che è il pensiero, di quella che è la cultura, di quella che è l'attualità europea. Il prossimo sito, anche questo spesse volte lo abbiamo citato qui all'Altra Europa, ci piace come viene gestito, ci piace la sua storia. Si tratta di Caffè Babel, che è un po' la voce delle tante voci che ci sono in Europa, però con un taglio anche giovane, perché il cuore appunto è l'Erasmus, le persone, i ragazzi, gli studenti che attraverso l'università hanno avuto la possibilità di viaggiare e di vivere in Europa. Caffèbabel.it è il nome del portale nella sua versione italiana, e proprio il responsabile della versione italiana, Nicola Accardo, è qua con noi. Ciao Nicola, buon sabato. Ciao Federico. Ciao. Quando ti chiedono di spiegare che cos'è Caffèbabel oggi, cosa dici, cosa rispondi? Oggi è un network, è l'antesignano dei social network, però con uno stampo giornalistico, perché è il pioniere in tutti i sensi dal punto di vista europeo. Il primo sito online, solo online, in 6 lingue, e in più ha già 10 anni fa messo in piedi una rete di appassionati, di giovani che piano piano si danno il cambio e passano parola perché questa rete venga alimentata, di giovani giornalisti, traduttori, appassionati, tutti coloro che vogliono in qualche modo contribuire ad alimentare un'opinione pubblica europea senza focalizzarsi troppo sugli aspetti istituzionali. Certo, un primo esempio forse anche di giornalismo partecipativo, perché davvero tante teste, tante mani, quasi tutti volontari legati a questo portale. La redazione, il cuore, si trova a Parigi, giusto? Sì, siamo in sei persone, uno per ogni versione linguistica, io mi occupo di quella italiana. E prima, certamente, quando c'erano più risorse c'erano ancora più giornalisti, e quindi dobbiamo fare un po' le nozze coi fichi secchi, diciamo, perché io come responsabile della versione italiana ricevo tantissime proposte di articoli, ricevo tantissime traduzioni da tutte le lingue, e poi in qualche modo si fa da caporedattori, perché non è un giornalismo partecipativo in senso lato, dove chiunque può scrivere. Comunque c'è una selezione degli argomenti e si cerca di accompagnare sia chi scrive sia chi traduce nel lavoro. Si cerca di dare qualcosa indietro, non è perché il lavoro comunque volontario e senza remunerazione deve comunque essere remunerato dal punto di vista umano, diciamo. Certo, e Nicola, proprio gli argomenti, con i contenuti fanno un po' la differenza, no? Perché quello che leggi in Caffè Babel difficilmente lo trovi su altri portali o su altre testate. E come avviene appunto la scelta delle cose di cui parlare e come funziona la caccia alla notizia? Ma innanzitutto con una semplice riunione di redazione, come avviene in tutti i media tradizionali, solo che in questa riunione di redazione siamo sei persone provenienti da sei paesi diversi che parlano sei lingue diverse. Il criterio più importante è certamente il paneuropeismo, ovvero un tema cerchiamo di affrontarlo dal punto di vista europeo, quindi facendo un confronto tra tutte le diverse realtà nazionali. E poi c'è la curiosità, c'è la novità, c'è un qualcosa, c'è sempre il trend, ad esempio c'è la rubrica Lifestyle che cerca di catturare il trend significativo in un paese che poi diventa di tipo europeo. Certo. Poi per quanto riguarda invece i temi che provengono dalle singole realtà, per quelli ci sono i reportage di cui abbiamo parlato anche in altre puntate dell'Altra Europa, i reportage appunto finanziati dalla Commissione Europea e da varie fondazioni che permettono a Caffè Babel di inviare sul terreno dei giovani giornalisti e quindi poi raccontare la realtà locale. Certo, una forte presenza sul territorio, anche questa è una caratteristica importante di Caffè Babel. Tra le inchieste, tra i reportage, c'è qualcosa che vuoi segnalare come particolarmente curioso e interessante per chi magari non avesse mai visitato il sito, quindi può essere un ottimo biglietto da visita, diciamo? Allora, noi in questo momento abbiamo deciso di pubblicare sulla home page due versioni speciali dei due progetti che abbiamo portato avanti quest'anno. Uno si chiama Orient Express Reporter e che quindi è tutta una serie di reportage dai Balcani e dalla Turchia. e in questo abbiamo scelto appunto una selezione dei migliori articoli. L'altro si chiama Green Europe on the Ground, l'Europa verde, l'Europa ecologica, e abbiamo fatto anche per cui anche in questo caso una selezione dei migliori articoli. Tra questi mi viene in mente uno particolarmente ben fatto e curioso sull'inquinamento luminoso in Slovenia, dove c'è la legge più severa in Europa, sì, e che permette quindi alle falene, alle lucciole e agli uccelli di difendersi meglio dal rischio di estinzione, perché questa legge è stata appunto voluta dagli astronomi e dagli ambientalisti per proteggere gli uccelli che vengono guidati nella loro migrazione attraverso le stelle e gli insetti che da quando è tornata in voga la religione in Slovenia dopo la caduta del comunismo muoiono e vedono una diminuzione costante là dove sono state, là dove c'è l'illuminazione delle chiese in particolare. Insomma, quindi curiosità però dell'altra Europa, ma anche questa è l'Europa che ci piace raccontare. Grazie davvero a Nicola Cardo, responsabile della versione italiana di Caffè Babel, ma Nicola, sicuramente ci ritroveremo presto qui all'altra Europa. Ciao e buon sabato. Ciao. Ci fermiamo, la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, l'altra Europa. Oggi puntata speciale dedicata all'Europa che si può vedere, scoprire, studiare attraverso internet, una carrellata di portali importanti appunto per avere nuove visioni sull'Unione Europea e non solo, perché andiamo anche al di là dell'Unione Europea. Andiamo a scoprire adesso un portale. L'Italia è uno dei 15 paesi che viene raccontato da questo portale. Stiamo parlando di Euractiv e il sito italiano è www.euractiv.it. Per capire che cos'è abbiamo con noi una delle redattrici, diamo il benvenuto ad Alessandra Flora. Ciao Alessandra, buon sabato. Buongiorno, buon sabato a tutti. Buongiorno. Euractiv, diciamo che è uno degli ultimi portali ad essere sbarcato online, appunto con un focus molto particolare sull'Europa. Mancava la versione italiana, cioè da un paio di mesi. Che cos'è? È proprio così, infatti Euractiv Italia è prima di tutto una grande scommessa, perché nasce un po' da un sogno che è quello di dedicare interamente un portale all'informazione europea. E è un po' strano che l'Italia, che è uno dei paesi fondatori dell'Unione, poi sia invece l'ultimo arrivato, perché è il 15° tassello della rete Euractiv. Però l'importante è essere arrivati e aver fondato quindi il portale italiano. Di questo siamo molto soddisfatti, è un portale che è online dal maggio 2009 e ecco, è nato dall'incontro tra il management di Euractiv.com, quindi dal fondatore che è Christophe Leclerc, con Andrea Gallo, che invece è un imprenditore italiano, un editore multimediale che è un appassionato di Europa, più che un europeista direi, diciamo, un appassionato di Unione Europea, di cultura europea, e che ha deciso di cominciare questa grande avventura editoriale. È una scommessa, un po' una pazzia, nel senso che non ci sono poi tanti altri editori che hanno voluto scommettere interamente sull'informazione europea, e è una bella avventura per noi redattori che ci lavoriamo, perché lo facciamo con grandissima passione, perché comunque spaziamo da... Ecco, infatti Alessandra, questo mi interessa, sì. Che Europa raccontate? Perché parlare di dare informazioni sull'Europa è molto generico. Voi avete puntato il vostro focus su aspetti particolari? Sì, diciamo che l'economia è al centro del nostro portale, quindi energia, sostenibilità, innovazione sono i temi centrali a cui abbiamo dedicato delle sezioni specifiche. E poi c'è da dire che la strategia Europa 2020, che si basa comunque su una crescita sostenibile, intelligente e competitiva, sono argomenti, sono temi abbastanza generici, per cui noi cerchiamo di spiegare al nostro pubblico, ai nostri lettori, questi temi con esempi specifici, quindi attraverso le testimonianze di diversi stakeholder. Quindi abbiamo per esempio rappresentanti delle istituzioni, piuttosto che per esempio anche rappresentanti del mondo accademico, che ci spiegano le scelte che vengono prese nella, diciamo, nell'alveo europeo da Parlamento, dal Parlamento europeo piuttosto che dalla Commissione, e le ricadute di queste scelte per il nostro paese, quindi con un taglio fortemente italiano, cioè noi cerchiamo di spiegare agli italiani quali sono le ripercussioni delle scelte che vengono prese in ambito europeo per il nostro paese, quindi abbiamo sia interlocutori italiani che interlocutori europei. E, insomma, è una bella scommessa, direi, perché comunque affrontare questi temi e cercare di renderli comunque semplici e notiziabili non è semplice, perché per esempio da una ricerca che è stata fatta dalla Università di Perugia da un giovane ricercatore, Alessio Corna, si è vista la scarsa attenzione dei media generalisti per i temi europei, soprattutto da parte dei telegiornali, invece internet è molto più attento, e anche se c'è da dire che per esempio anche i quotidiani trascurano molto l'informazione europea. Adesso con la crisi, diciamo, con la crisi europea c'è un bisogno di più Europa, e forse, ecco, l'informazione sta anche migliorando a livello qualitativo. Grazie davvero Alessandra per averci dato una fotografia esaustiva delle sito. Ricordiamo euractive.it, questo è l'indirizzo, davvero tante notizie, un'agenda sempre aggiornata di quelli che sono gli eventi più importanti in Europa, e poi questa correlazione continua tra il locale, quindi la nostra Italia, e quello che accade in Europa, con questo importantissimo doppio binario. Ciao Alessandra, buon sabato e buon lavoro. Grazie anche a te, a presto, ciao. Accompagnati da questa musica continua il nostro viaggio tra i portali che raccontano l'Europa. Il prossimo è un portale che conosciamo molto bene, perché spesso abbiamo citato e spesso abbiamo parlato con i collaboratori sparsi lungo tutto i Balcani. Diamo il benvenuto a Luca Zanoni, direttore dell'Osservatorio Balcani e Caucaso, www.balcaniecaucaso.org. Ciao Luca. Buongiorno a voi. Ciao, buon sabato. Allora Luca, è un portale particolare perché racconta un'altra Europa, quindi assolutamente in sintonia con col nostro programma, ma che di fatto fa parte dell'Europa, no? Adesso al di là di quelle che sono le burocrazie, diciamo. Come mai che avete scelto di spostarvi in quel lato d'Europa e raccontarlo in una maniera così puntuale? Il progetto ormai ha passato i 10 anni, abbiamo festeggiato l'anno scorso il decennale, e iniziava proprio appunto tra il 1999 e il 2000, voleva essere un portale di supporto a quelle ONG che erano sul campo, e nasceva proprio all'indomani della conclusione, della fine della guerra in Kosovo. Piano piano si è trasformato, siamo diventati una testata giornalistica registrata, ci siamo professionalizzati, si è estesa notevolmente la rete dei corrispondenti e anche l'area geografica di cui ci occupiamo. Inizialmente siamo partiti con i paesi della ex Jugoslavia per arrivare adesso fino appunto al Caucaso, ormai da qualche anno, insomma, comprendendo anche la Turchia, la Grecia e tutti quei paesi, insomma, che a Romania, Bulgaria, eccetera. Quindi sì, si parla di Europa e anche di quei paesi che hanno, diciamo, una prospettiva europea molto dilatata nel tempo. Certo. Al Caucaso, ecco, per esempio. Certo, e con questo intreccio continuo, che credo sia una delle caratteristiche più belle del vostro portale, questo intreccio continuo tra politica e cultura, perché è proprio questo, no? Si usa la politica per spiegare la cultura, ma si parte poi dalla cultura per capire eventi politici, è questo un po' il giusto mix che da sempre portate col vostro portale? Ma sai cosa, si rischia di, parlando solo di attualità, di cronaca e di politica, si rischia di anche di dare una visione di questi paesi che è buona parte dei quali sono destinati fortunatamente ad entrare in Unione Europea, penso ai Balcani occidentali, sì. La Croazia entrerà l'anno prossimo nel 2013, quindi sarà nel luglio del 2013 sarà il 28esimo paese dell'Unione Europea. Si rischia, appunto, dicevo, di dare una visione sempre solo schiacciata su determinati fatti che alcune volte sono fatti, insomma, di cronaca pesante. E trovare il giusto connubio con la cultura e provare a parlare anche di questi paesi da un altro punto di vista, penso che possa essere interessante anche per i lettori, perché ci sono molte persone, per esempio si parla anche di turismo, di viaggi, modo di scoprire questi paesi. Sono paesi che sono bellissimi dal punto di vista naturalistico, ma anche culturale, paesaggistico, architettonico, che vale la pena sicuramente vedere. E quindi, insomma, e poi c'è tutto l'aspetto, se vogliamo, culturale in senso stretto, quindi l'arte, la letteratura, cercare di portare a conoscenza la realtà di questi paesi sotto le mille sfaccettature. Certo, utilizzo anche di video, di audio, insomma, è davvero. Sì, beh, questo insomma il web ormai per fortuna, offre vero? Mille possibilità. Però insomma, sai, a volte si è solo delle vetrine, voi fate quel passo in più che è sicuramente un valore aggiunto. Luca, c'è un dossier, c'è un servizio, c'è un articolo che ti porti nel cuore, che meglio di altri racconta questi 10 anni di vita del portale? Ma che racconta questi 10 anni di vita, magari no, perché sono veramente tanti e i paesi sono tantissimi. Però c'è un reportage che tra l'altro ha vinto anche un premio europeo, che è Insieme contro le discriminazioni nel 2010, è stato fatto da un collaboratore che si è fatto il viaggio dal Medio Oriente, addirittura parte dall'Afghanistan fino ad arrivare in Italia. È un reportage in 14 puntate, si intitola Moussa Khan, e questo Paolo Martino è riuscito a seguire le rotte degli immigrati in questo caso afghani, i muhajirin, che attraversano proprio tutte le frontiere per raggiungere l'agognata, ecco, o l'anelata Europa. È una cosa molto interessante, forse una delle cose più belle che abbiamo pubblicato, se non la più bella che abbiamo pubblicato l'anno scorso, e giustamente ha ottenuto anche un premio. Ecco, questo perché si parla soprattutto di paesi, adesso l'Afghanistan è molto al di fuori dei nostri orizzonti, certo, diciamo geografici, però gli attraversamenti della Turchia, della Grecia, tant'è che appunto poi l'altro Martino, cioè Francesco, ha fatto un reportage su Evros, sempre l'ultima porta d'Europa, quindi le fatiche, ha seguito passo per passo, giorno dopo giorno, che cosa succede, raccogliendo storie proprio di prima mano di queste persone che fanno di tutto per cercare di entrare in Europa. Luca, un'ultima domanda che ha però una doppia sfaccettatura, nel senso come si acquisisce poi credibilità sul territorio, perché anche questo è importante, e la seconda, che è in parte legata, è: voi vi proponete di raccontare i Balcani al resto d'Europa, ma poi siete letti anche dai Balcani stessi, nel senso diventate poi anche un punto di riferimento per quelle nazioni? Ma questo, guarda, diciamo che è una sorta di diplopia, no? Come dire, di doppio sguardo. Da un lato vedere l'Europa, e l'Unione Europea in questo caso, nel senso più stretto, come affronta le politiche legate ai Balcani e il Caucaso rientra in un'altra serie di questioni. Certo. Per limitarci ai Balcani occidentali, quindi quali sono i passi, quali sono le posizioni che l'Unione Europea prende rispetto a questi paesi. Dall'altra parte, invece, in senso inverso, vedere che cosa viene recepito da questi paesi in merito a Unione Europea, Europa, per esempio la questione dei visti, la questione della libertà di movimento che abbiamo sempre seguito, come abbiamo sempre seguito insomma i passi successivi che sono stati fatti dall'Unione Europea per l'allargamento. Ecco, la questione dei visti e libertà di movimento sono tra le questioni che stanno più a cuore sicuramente ai cittadini che dall'altra parte dell'Adriatico. E la credibilità viene data anche, per rispondere alla tua prima domanda, da poter lavorare con una cinquantina, 45, 47 corrispondenti sul campo, e quindi ci riusciamo continuamente a scambiarci. Ovviamente lì ritorna la questione della tecnologia, perché chi sta a Baku piuttosto che a Sarajevo o a Belgrado, insomma, riusciamo a comunicare molto facilmente e avere non solo informazioni di prima mano, ma a essere in qualche modo presenti sul territorio. Inizialmente i corrispondenti nel progetto originario di osservatorio si chiamavano antenne, proprio come se fosse una propagine, no? Certo. Dell'osservatorio che arrivava lì. Ora vabbè, sono tantissimi giornalisti professionisti, anche giornalisti investigativi, e quindi diciamo la cosa si è trasformata nel tempo, però insomma, avvalersi di persone con una certa professionalità sicuramente poi, sai, quando la storia è bella o che viene raccontata, viene anche ripresa spesso dai giornali locali o dalle realtà locali. Certo, grazie davvero a Luca Zanoni, direttore dell'Osservatorio Balcani e Caucaso, grazie a te e a tutti i vostri collaboratori, www.balcanicaucaso.org. Ciao e buon sabato, noi ci fermiamo, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'Altra Europa. L'Altra Europa. Eccoci ancora qua con l'Europa scoperta attraverso internet, e non si può non parlare d'Europa senza citare l'Erasmus, come tante volte facciamo, e quindi andiamo a scoprire il sito esne.org, Erasmus Student Network. Con noi Silvia Crocitto, che è una appunto delle redattrici del sito. Ciao Silvia. Ciao, ciao Federico, ciao a tutti, buon sabato. Buon sabato a te, tu ti occupi delle pagine in italiano e in spagnolo, se non erro? Esattamente. Con sede dove? Io sono a Sena, Reggio Calabria, però sono anche su Sena, Spagna. Ok. Quindi un po' in giro, un po' di rovana. Perfetto. E Silvia, spiegaci cosa offre il portale ed è un punto di riferimento soprattutto per chi? Allora, in generale gli utenti possono essere sia gli stessi Erasmus che si muovono dalla loro università, diciamo, di provenienza verso una università ospite, ma in generale noi accogliamo anche volontari che vogliono essere parte dell'SN e giovani europei o non europei, perché no. Quindi non bisogna essere degli Erasmus per accedere al vostro sito, nel senso assolutamente che... Assolutamente no, noi siamo assolutamente come una media no profit, siamo persone molto aperte, siamo volontari tra l'altro, siamo tutti giovani, e quello che ci importa è che le nostre notizie, che tutto il nostro aiuto come volontari venga diciamo messo in discussione da parte dell'Europa e che si possa offrire a tutti i giovani in generale, senza distinzione diciamo di nulla in generale. Ecco Silvia, tu che sei dall'altra parte della tastiera, sei dall'altra parte della rete, sì. Un giovane interessato all'Europa e o interessato all'Erasmus, cosa chiede? Quali sono le prime domande che fa? Cioè, hai una tua sorta di statistica personale? Cosa spaventa e cosa piace di questa Europa? Allora, la prima domanda che ti fa un Erasmus in partenza è: dove vivo? Okay. Mi può aiutare a cercare una casa? O mi aiuti a fare il learning agreement? Mi aiuti a stipulare i documenti, i passi, eccetera, eccetera? La nostra risposta ovviamente è sì. E per questo noi abbiamo fatto anche un progetto molto importante che si chiama PRIME, cioè Problems in Recognition When Making Erasmus. Questo significa che abbiamo fatto una statistica veramente a livello europeo che è stata portata avanti per 6 mesi, che ci ha consentito di aiutare gli Erasmus passati e futuri ad avere le materie diciamo convalidate senza molti problemi al ritorno diciamo dall'Erasmus e anche all'atto di fare il Learning Agreement. Altre cose molto importanti per noi che noi gestiamo è la rete di Galaxy, cioè dove i ragazzi possono trovare tutte le sezioni nazionali e locali, sì. Quindi loro hanno già chiaro la destinazione, sanno che per esempio verranno ad Alcalá de Henares, a Reggio Calabria, a Roma, a Budapest, eccetera, eccetera, cercano la sezione su SN Galaxy e da lì vedranno i membri che appartengono alla sezione locale e potranno contattare direttamente con loro. Perfetto. Oltre le tantissime newsletter che scriviamo e le varie opportunità europee che diamo di tirocinio, volontariato, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi insomma ce n'è davvero per tutti i gusti. E hai detto che tu per esempio lo fai come volontariato? Esattamente, volontariato, sì. Ecco, siamo tutti volontari, no profit, non c'è animo di lucro nelle nostre azioni né nelle nostre cose, assolutamente. Ecco, quindi l'ultima domanda è per te: cosa spinge una giovane a dedicare il proprio tempo a un'attività del genere? Amore per l'Europa, spirito di servizio, per che cosa? Tantissime cose, tra le prime il fatto di essere in Europa che sta cambiando e che deve cambiare. Per noi giovani è molto importante avere un fondamento, un punto di appoggio, una spalla su cui ridere o piangere, dipendendo dalle situazioni. Però quello che più mi spinge è il fatto di essere stata Erasmus e aver avuto problemi al mio rientro. Dunque è stata, diciamo, la molla che ha fatto scattare tutto. E da lì in poi ho deciso di essere volontaria d'SN e tutt'oggi siamo in gestione qua, tra SN International, SN Italia, SN Spagna, tutto quello che io possa fare per il futuro dell'Europa e dei giovani europei. Insomma, ci piace dire che l'Europa è anche questo, www.esne.org. Grazie davvero Silvia, in bocca al lupo per la tua attività. Grazie a te Federico, ciao a tutti. Europost-it. Internet e Rail? L'Interrail è uno dei più famosi ed utilizzati metodi per girare l'Europa, soprattutto dai giovani. Con un biglietto unico si viaggia per i paesi europei in treno, spendendo poco e facendo nuove conoscenze. Anche il sito www.eurail.com, che permette di prenotare e cercare notizie sull'Interrail, è molto giovane ed allegro, ma soprattutto ricco di informazioni utili e facilmente accessibili per rispondere a tutti i bisogni dei viaggiatori. Non solo, il sito offre anche una serie di servizi e di notizie in tempo reale ed ha anche la sua versione su Facebook, Twitter e YouTube, in modo da essere accessibile dovunque. Di recente Eurail ha promosso anche un concorso di video per raccontare l'esperienza dell'Interrail. Per tutti questi motivi il sito ha anche vinto uno degli Oscar del web, il Mashable Award. Prendete la valigia e andate su eurail.com. E l'ultima tappa di questo nostro viaggio alla scoperta dei portali che raccontano l'Europa, è una tappa importante che anche noi spesso citiamo, e stiamo parlando di Press Europe. www.presseurope.eu è il sito. Per capire di cosa si tratta abbiamo invitato Gianpaolo Accardo, che è tra i fondatori e attualmente condirettore di Press Europe. Ciao Gianpaolo, buon sabato. Un saluto a voi, ciao Federico. Allora, non è facile sintetizzare in poche parole, credo, il vostro lavoro, però che cos'è Press Europe? Press Europe è un portale che è nato da un'iniziativa della Commissione Europea e il suo scopo è di pubblicare in 10 lingue il meglio della stampa mondiale ed europea sull'Europa. Quindi noi pubblichiamo ogni giorno, 5 volte a settimana, una selezione di articoli e di notizie sull'Europa che abbiamo trovato nei giornali europei, ma anche degli altri continenti. Quindi una rassegna stampa che racconta un po' quello che è il polso europeo, no? Perché l'idea è un po' quello, cercare l'attualità, ma non solo, perché non seguite solo l'attualità stretta. Molte volte troviamo articoli che vanno a cercare altre notizie, veramente narrare un'altra Europa anche attraverso le varie stampe nazionali. Certo, lo scopo è di raccontare un po' agli europei il loro continente, perché come in Italia, come un po' in tutti i paesi, è l'attualità che si può sentire, leggere in ogni paese, nella propria lingua, è un'attualità essenzialmente nazionale, ci si interessa un po' meno a quello che succede all'estero, tranne le grandi notizie. E le notizie europee, diciamo, istituzionali, ma anche di società, cultura o politica, non fanno i grandi titoli. Ebbene, noi cerchiamo di portare ai lettori europei queste notizie qua, andiamo a cercare un po' dappertutto e le traduciamo nella loro lingua, perché come dicevo siamo tradotti in 10 lingue, tra le quali naturalmente l'italiano, ma anche il francese, l'inglese, il romeno, il tedesco, il polacco. Ecco Gianpaolo, dal tuo osservatorio privilegiato si respira quest'aria di Europa unita o vi trovate solo a tradurre articoli di tante nazioni? Beh, noi cerchiamo di trovare l'equilibrio giusto tra le notizie che riguardano l'attualità istituzionale, l'attualità, se vogliamo, dell'Europa Unita, come l'hai chiamata tu, con le notizie nazionali. Le prime perché appunto vogliamo raccontare ai lettori che esiste un continente che avanza in un certo senso unito, anche se insomma, la crisi dell'euro ci sta mostrando che certo, tanto unito non è. E poi cerchiamo anche di raccontare agli europei quello che succede dai loro vicini e del quale non sono per forza al corrente. Quindi è un delicato equilibrio tra nazionale e internazionale, nazionale ed europeo. Ecco, e c'è anche la produzione di articoli comunque. Ho per esempio letto da poco una tua bellissima intervista a Paolo Rumiz. Sì, noi produciamo anche articoli propri che non sono la parte più importante di quello che pubblichiamo. Pubblichiamo delle rassegne stampa su dei temi, sul tema del giorno, dei temi di attualità, pubblichiamo degli editoriali che scriviamo noi e pubblichiamo anche delle interviste a personalità europee o di respiro europeo. Quello di Paolo Rumiz riguardava in particolare il suo viaggio attraverso la frontiera dell'Europa, che è stato pubblicato da Repubblica un paio di anni fa. Giampaolo, tu vivi e lavori a Parigi, ti senti un privilegiato? Ma penso di sì, perché intanto le condizioni di lavoro sono molto confortevoli. Lì abbiamo messo su una redazione internazionale e multilingue molto affiatata, e penso che sarebbe stato difficile farlo altrove. Forse ci saremmo riusciti magari in Germania, ma insomma comunque bisognava essere nel cuore del continente e non in periferia. Questo. E questo a Parigi era possibile. Oltretutto noi siamo nei locali di Courrier International, che è un po' il cugino transalpino di Internazionale, è una rivista che da più di 20 anni ha come scopo raccontare ai suoi lettori quello che succede nel mondo attraverso la stampa dei giornali di tutto il mondo. Certo, grazie davvero Gianna e Paolo, complimenti per il tuo e per il vostro lavoro. www.presseurope.eu è il sito ufficiale, ci troveremo sicuramente in una delle prossime puntate dell'Altra Europa. Ciao, buon sabato. Arrivederci, buon sabato a voi. E questo ciao va a tutti voi, la puntata finisce qua, un grazie a Margherita Ina che con me l'ha scritta. Radio24.it è il nostro sito da cui potrete scaricare il podcast da lunedì. Tutti i siti che abbiamo citato invece li potete trovare nelle nostre pagine facebook.com/l'altra Europa. Ancora ciao da Federico Taddia.